Magazine 24, la rassegna dei settimanali. Buona giornata da Jean-Marie Delbois e benvenuti a Magazine 24, il settimanale di Radio 24 che si occupa dei periodici che trovate in edicola in questi giorni. I temi forti di questi giorni sono naturalmente il terremoto, una emergenza nuova e la crisi, una emergenza permanente dell'economia mondiale che sta creando molti problemi alla gente e che la gente cerca di capire attraverso la consultazione dei quotidiani e dei settimanali, cosa che, come vedremo, comporta un surplus di responsabilità per chi settimanali e quotidiani li fa. Ma partiamo dal terremoto. Molte copertine di questa settimana sono dedicate al terremoto. La principale, forse la più significativa, è quella di Famiglia Cristiana. Famiglia Cristiana che ha un titolo indicativo, La passione dell'Abruzzo, che concilia questo evento tremendo che ha colpito la regione italiana con la Settimana Santa, che naturalmente per Famiglia Cristiana ha un ruolo determinante in questi giorni. Ma il tema ricorre, come detto, sulla generalità dei settimanali italiani e su molti settimanali internazionali, con molte storie, con molti punti di vista. Partiamo per esempio da Panorama. Panorama dedica un ampio approfondimento al tema e apre un focus sui medici. Racconta Fabrizio Paladini. Guai a chiamarli eroi, dicono che hanno fatto solo il loro dovere. Ma due cose vanno dette. La prima è che tutti i medici e gli infermieri dell'ospedale nuovo hanno vissuto la terribile scossa occupandosi subito di se stessi, dei propri cari, degli amici del piano di sotto. La seconda è che senza alcuna chiamata si sono riversati sul proprio posto di lavoro. L'accento quindi viene posto sulla funzione che medici e infermieri hanno svolto nelle prime ore dell'emergenza terremoto. Sandra Moro, continua Panorama, è uno dei tanti medici non eroi. Vivo a Paganica, uno dei paesi più colpiti. Noi tutto bene. Dopo le prime ore sono scesa qua giù a vedere cosa c'era da fare. Non immaginavo di trovare l'inferno. Sono ginecologa e la prima cosa è stata mettere in sicurezza le nostre pazienti. Una donna era arrivata alla massima dilatazione e ha partorito in ambulanza. Ma poi c'erano da curare i feriti, cucire, fasciare, rianimare. Ho detto, io so far nascere i bambini, ma voi usatemi per qualsiasi cosa. Non c'era tempo per pregare. Sul terremoto si sofferma anche l'Espresso, con un taglio differente da quello di Panorama, che guarda direttamente a quello che accadrà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e alle responsabilità. Qualcuno adesso dovrà indagare, dice Fabrizio Gatti, una volta sepolti i morti e sistemati gli sfollati, dovrà spiegare perché all'Aquila il cemento impastato 10 o 20 anni fa già si sbriciola come pane secco. Dovrà dire perché queste travi si sono spezzate e hanno fatto un massacro. Come qui, adesso, in questa notte gelida, con il brivido delle scosse di assestamento e il vento del Gran Sasso che spazza le macerie di via Luigi Sturzo, centro città, 100% di morti nelle case nuove là in fondo alla strada. Nuove, eppure sono venute giù. L'Espresso quindi pone l'argomento delle responsabilità, delle eventuali colpe e anche sottolinea il problema della difficile convivenza tra Italia, terra sismica e modalità di costruzione talvolta non rispettose delle disposizioni. Sull'Espresso però un riquadro riporta anche un altro elemento. Qualcuno ha definito, dice il settimanale, quella dell'Abruzzo la prima catastrofe nell'era di Facebook, per sottolineare il ruolo della rete sociale nel condividere e diffondere informazioni dopo il terremoto. In realtà, più che a Facebook, la notte del sisma bisognava guardare a Twitter, il servizio di microblogging che ha battuto sul tempo le agenzie. E fino all'alba internet è rimasto il principale strumento di informazione per chi voleva sapere qualcosa. Sottolineando quindi come l'evento notturno ha determinato un vuoto di informazioni che è stato scoperto dai nuovi media. Abbiamo detto che l'altro tema forte della settimana è naturalmente quello della crisi economica. La crisi economica che accompagna ormai costantemente le nostre settimane, i nostri mesi e che potrebbe accompagnare sicuramente tutto il 2009 e poi chissà. L'Espresso sottolinea un elemento in un articolo di Suketu Mehta, ovvero la necessità di trovare le parole, le modalità per raccontare la crisi, per evitare che si ripeta ciò che sta creando danni a gran parte della popolazione mondiale. Mehta sottolinea, ancora una volta, soffrire di più sono i poveri. Sono 90 milioni le persone che potrebbero essere spinte sotto la soglia di povertà entro la fine del 2010 a causa della crisi, perché gli investitori dei paesi ricchi tengono lontano il loro denaro dai rischiosi mercati azionari dei paesi emergenti. Negli Stati Uniti la recessione implica che le persone perdono il posto di lavoro e devono quindi lasciare la propria casa. In Africa la conseguenza è che le persone non avranno da mangiare e moriranno. Siamo vittime dei gerghi, di quello delle riviste accademiche. Solo pochissime persone conoscono il significato di derivati o di credit default swaps. I banchieri hanno potuto derubarci restando nascosti dietro al muro del gergo. Quando le pagine economiche, continua Mehta, di un giornale diventano indecifrabili quanto una pubblicazione accademica, occorre allarmarsi. È qui dunque che assumono un ruolo centrale scrittori e giornalisti. Noi siamo gli intermediari, gli interlocutori, e nessun altro può svolgere questo ruolo. È una nostra responsabilità sfondare il muro del gergo, vale a dire ascoltare gli esperti finanziari e tradurre i loro discorsi in inglese o in italiano, a beneficio di chi non ne è esperto. E Mehta chiude, così come Tolstoi scrisse sulle guerre napoleoniche, così i nostri romanzi dovrebbero capire e parlare delle guerre finanziarie del XX secolo. Differente l'approccio, sempre sull'Espresso, di Luigi Zingales. Luigi Zingales guarda più alle ricadute del piano Geithner e alla interpretazione che si deve dare a questo piano. La sua interpretazione è questa. Se fosse stata pubblicata due giorni prima, poteva sembrare un fantastico pesce d'aprile, ma la notizia apparsa sul Financial Times del 3 di aprile è tristemente vera. Le banche americane vogliono partecipare al nuovo programma di Geithner, disegnato per aiutarle a liberarsi dai titoli tossici. Come si spiega che le principali banche starebbero considerando di utilizzare il piano? La risposta è fin troppo semplice. Pecunia non olet, al prezzo giusto anche i titoli tossici non puzzano più di tanto. E il piano di Geithner è veramente generoso. Secondo Zingales, in poche parole, il piano Geithner si rivelerebbe un enorme intervento di sussidio che trasferisce la maggior parte dei rischi sui contribuenti. La verità, quindi, non è che le banche devono essere liberate, conclude, dai titoli tossici, ma che le banche vogliono essere salvate dal fallimento con i soldi dei contribuenti. Sul tema della crisi si sofferma anche Vita, il settimanale del non profit, con un'intervista a Giulio Sapelli, l'economista italiano. Secondo Sapelli stiamo vivendo una duplice crisi, finanziaria e industriale, che solo per coincidenza si sono manifestate contemporaneamente. Quella industriale, per Sapelli, è una crisi di sovrapproduzione. Troppa ricchezza si è spostata nelle mani della rendita e del capitale. Quella finanziaria, invece, è una crisi da colpo di stato dei top manager. Sono crollate le regole dello scambio della moneta simbolica e del rischio diffuso. La posizione di Sapelli è fortemente critica con le politiche adottate da Barack Obama e fortemente critica anche con le scelte che sono state compiute negli anni scorsi di allargamento ai paesi dell'Est dell'Unione Europea. Quindi non c'è speranza, chiede Vita, e Sapelli conclude, ci possono salvare solo tre cose, un po' di inflazione, l'aumento dei salari e la distruzione di stock di capitali. E qui aggiunge un dato inquietante. Tutti, dice Sapelli, fanno finta di non saperlo, ma dalle scorse crisi, per l'appunto quelle del 1907 e del 1929, si è usciti solo con lunghe e dolorose guerre che sono servite a distruggere un po' di mezzi di produzione, oltre che drammaticamente molte vite. Aumenterà la disoccupazione, chiude Sapelli, per questo bisogna assolutamente creare un nuovo welfare e creare nuove tipologie di imprese cooperative. Un quadro che individua proprio nella necessità di creare un nuovo welfare la risposta immediata che si può dare a questa fase di grande difficoltà economica. La crisi torna anche sull'Espresso, torna nell'intervento di Massimo Riva dal titolo assolutamente inquietante e significativo, Paradiso fiscale Italia. Massimo Riva intreccia la decisione dei paesi più industrializzati di lottare contro i paradisi fiscali con i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi e considera la posizione particolare di Berlusconi e Tremonti. Ora che i due sono rientrati in Italia dopo il G20, forse è il caso di chiedere loro che cosa intendano fare per quanto riguarda quello specifico e non trascurabile paradiso tributario domestico che si sostanzia in una scandalosa evasione fiscale di massa. Va bene mettere alle strette governi e banche della Svizzera o delle Bermude, ma questa necessaria campagna rischia di suonare ipocrita se poi all'interno del paese si chiudono entrambi gli occhi dinanzi a un fenomeno che per qualità e quantità mette a repentaglio lo stesso contratto sociale su cui si fonda la Repubblica. A riguardo, continua Riva, gli ultimi dati resi pubblici, dichiarazioni 2007 sui redditi 2006, offrono un quadro che è un insulto al tenore di vita di molti italiani. Il 35% dei contribuenti vivrebbe con meno di 10.000 euro l'anno, mentre meno dell'1% denuncia introiti sopra i 100.000. L'una e l'altra di queste percentuali estreme suonano semplicemente incredibili ed hanno ragione chi stima che con l'evasione siano sottratti all'erario non meno di 200 miliardi l'anno. Magazine 24. Proseguiamo con la rassegna stampa dei settimanali e dei periodici che si trovano in questi giorni in edicola. Parlavamo di crisi e ora vediamo un elemento connesso alla crisi che viene trattato con una inchiesta molto significativa da il mensile in vendita insieme al Sole 24 Ore. Il sofferma la propria attenzione sulla rabbia delle generazioni più giovani, che subiranno sicuramente il peso della crisi economica e che sono in qualche misura destinate a rivedere la propria lista di sogni e aspettative. Una vicenda sicuramente complessa per chi deve cominciare a ricostruire il proprio progetto di vita. Sul tema della cosiddetta generazione Y si sofferma Severino Salvemini, docente all'Università Bocconi di Milano. Il nostro percorso, dice Salvemini, è stato carosello, mangiadischi, esame di maturità e benché sia andata a viaggio a Carnaby Street a vedere da vicino i capelloni. Il loro invece cartoni animati, videogiochi, internet, Facebook, viaggi virtuali in Second Life e reali con l'Erasmus, sempre con iPod e iPhone. Loro sono i nati nella seconda metà degli anni Ottanta, la generazione Y, i techno-ager, vittime consapevoli degli stimoli elettronici che li circondano. Si affacciano ora al mondo del lavoro, molti con la certezza di non trovare una collocazione superiore a quella dei loro genitori, nonostante studi anche di prima qualità. Grande rapidità di intuizione, pragmatismo e innovazione, ambizione e negoziabilità nei confronti delle offerte aziendali. Queste sono le loro caratteristiche. Accanto a un'alta produttività, che spesso include la disponibilità di lavorare durante il weekend e nelle ore serali, c'è l'aspettativa di disporre di una maggiore autonomia e indipendenza nell'organizzare i propri ritmi di lavoro. La generazione Y detta nuove condizioni ai gestori delle risorse umane, imponendo una cultura organizzativa diversa da quella interiorizzata dai genitori. Quindi si tratta, sottolinea Salvemini, di una modalità di vita totalmente differente rispetto a quella di chi si trova in posizione di guida nella realtà aziendale ed economica. Su un punto legato a questo si sofferma Stefano Folli. Folli spiega: ogni generazione rompe con la precedente, come un buon pedagogista può spiegare, ma le generazioni nate negli anni 80 e 90 dell'Ottocento fino ai primi anni del nuovo secolo frantumarono un'epoca. Non è un caso che da quella grande ribellione abbiano preso forma tutte le tempeste destinate ad attraversare il Novecento: la prima guerra mondiale, le ideologie totalizzanti, l'avvento tumultuoso della società di massa. La domanda è se ora non stia accadendo qualcosa del genere. I modi sono diversi, ma la frattura non è banale e non è solo generazionale. I giovani europei di oggi sono nati alla fine del secolo, dopo decenni di benessere, ma quella lunga striscia di sviluppo economico senza quasi increspature oggi è spezzata. Si aggiunga una scuola che non sa preparare alle nuove sfide e che sembra aver cancellato il passato, lo studio della storia in primo luogo, e si consideri infine la frammentazione sociale in cui tutti i vecchi valori vengono disgregati e annichiliti. Ma la vita nel presente, conclude Folli, in una sorta di perenne adolescenza, funziona forse quando c'è il benessere diffuso. In mancanza, prima o poi, si riaffacciano i mostri. Quando il naturale conflitto tra padri e figli riguarda due concezioni del mondo, come avviene nei passaggi epocali, i rischi sono enormi. Diverso l'approccio di Famiglia Cristiana, che torna però sull'aspetto delle giovani generazioni. E lo fa presentando un libro del collega Sergio Nava, La fuga dei talenti, in cui si dà conto della scelta di molti giovani italiani, laureati e preparati al lavoro, di lasciare il nostro paese. Eravamo un paese di emigranti e lo siamo ancora, dice Rosanna Biffi. Così è l'Italia degli anni 2000, se guarda all'emigrazione dei suoi giovani laureati. Un'elite che cerca oltre i confini le opportunità che una patria matrigna non concede loro. Una fuga di talenti che non riguarda solo i ricercatori, ma professionisti di ogni specie, fra ingegneri e manager, avvocati e funzionari e artisti. La domanda è: l'Italia può permettersi di regalare ad altri un patrimonio di intelligenze e creatività che ha pagato di tasca propria negli anni di formazione? E la risposta, naturalmente, non potrebbe essere che negativa. Parla ancora di figli, di giovani, donna moderna. Pone l'accento, in un articolo di Santi Urso, sulla moda che hanno molte star hollywoodiane, ma non solo, di cercare di ottenere bambini in adozione. E fa gli esempi di Valeria Bruni Tedeschi, sorella niente meno che di Carla Bruni, cioè la moglie di Nicolas Sarkozy, di Madonna e di Angelina Jolie, prendendo spunto, peraltro, dalla ultima vicenda di Madonna, che ha cercato una nuova adozione nel Malawi e che non ha per ora ottenuto il nulla osta. Si tratta dunque di una curiosa verifica di come spesso il cammino difficile per l'adozione è in taluni casi più semplice, in altri casi altrettanto difficile anche per le star. Sulla famiglia torna anche Vita. Vita, infatti, sottolinea come potrebbe essere bloccata una delle ipotesi di riforma che erano state fatte dal governo, cioè l'istituzione del Tribunale della Famiglia. Il Ministero della Giustizia, sottolinea Vita, aveva annunciato per il 2009 un nuovo tribunale sul diritto di famiglia, ma al Senato si lavora per trasferire le stesse materie alla giustizia ordinaria. Vita sottolinea: la partita è aperta. E poi si pone una domanda: ma in tutto ciò, in questa riorganizzazione burocratica, si terrà veramente conto dei diritti dei minori? Domanda impegnativa, risposta impossibile. Passiamo ora all'Economist, che cambia decisamente argomento. L'Economist dedica la sua copertina alla ipotesi di azzeramento delle armi nucleari e sottolinea poi, nel suo abituale giro di tavolo della politica estera internazionale, come Barack Obama, dopo aver avuto un viaggio in Europa, dovrà dedicarsi ora al riavvicinamento o al contatto diretto con tutti i paesi dell'area americana. Infatti, dopo il fiasco di Mar del Plata del 2005, ora è giunto il momento di un nuovo vertice, di un nuovo summit di tutti i paesi dell'area americana, dal Canada ai paesi dell'America meridionale. Lo scopo di Barack Obama, sottolinea L'Economist è quello di ristabilire un clima di cordialità, ma sicuramente il presidente americano sarà giudicato sulla base di quello che verrà deciso nel rapporto difficile Stati Uniti-Cuba. Ora, sui rapporti tra l'America e i suoi alleati torna anche e si sofferma ampiamente il Nouvel Observateur. Il Nouvel Observateur fa un'analisi approfondita del rapporto Obama-Sarkozy e sottolinea come dietro i sorrisi di circostanza in realtà il rapporto tra i due presidenti e conseguentemente e in primo luogo tra la Francia e gli Stati Uniti sia ancora in fase di convalescenza dopo lo scontro sulla guerra irachena. Sottolinea quindi come le posizioni tra i paesi due paesi siano differenziate, come ci siano molti fascicoli, molti dossier aperti che rendono difficile avere rapporti eccellenti e come il cambio dei protagonisti alla guida dei due paesi non sia riuscito a dissipare tutte le nubi che avevano caratterizzato i rapporti tra questi due paesi negli anni passati. A partire dalla divergenza sul dossier nucleare che, sottolinea il Nouvel Observateur, nessuno denuncia ma che appare evidentemente chiara. Una curiosità, infine, dal Nouvel Observateur che attiene sempre ai rapporti tra la Francia e gli Stati Uniti nei rapporti personali, si sottolinea sul Nouvel Observateur come Nicolas Sarkozy ha grandissime difficoltà a parlare e apprendere l'inglese. Il Nouvel Observateur dice nonostante 15 anni di corsi non riesce a fare progressi e questo tutto sommato consola tanti di noi, tanto che per intrattenersi con Barack Obama ha avuto bisogno di interpreti e questa necessità si è manifestata anche nel corso di importanti incontri internazionali come quelli che si sono svolti ai tempi della guerra georgiana. Una consolazione per il presidente che lo ha preceduto, Jacques Chirac, che al contrario parlava un ottimo inglese. Per chiudere, una segnalazione agli ascoltatori. Molti settimanali arrivano in Italia, molti non arrivano, ma si possono vedere su internet. E questa settimana sono andato a curiosare sul sito di Veja, che è il più importante settimanale brasiliano. Al di là di tutte le notizie, terremoto italiano, crisi, rapporti internazionali, una mi ha colpito in particolare. Cambia l'esame di accesso all'università in Brasile, il celeberrimo per i brasiliani vestibular, e l'attenzione di famiglie e giovani è decisamente concentrata su questo passaggio. Per uno sguardo diverso sul mondo, il sito veja.abril.com.br. In conclusione, un saluto a tutti gli ascoltatori, con un augurio naturalmente di buona Pasqua, un ringraziamento a Daniele Casagrande e Vittoria Mussini in redazione e a Filippo Aureggi in regia.